Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Darei la vita per non morire. Con questo aforisma, Jim Morrison, leader carismatico dei Doors ed esponente fondamentale della rivoluzione culturale del 68, riesce a esprimere con grande profondità il valore intrinseco della vita stessa. Oggi Destini Incrociati vi racconta la storia di due uomini che al valore della vita hanno dedicato gran parte della loro esistenza e nel farlo hanno portato alla ribalta mondiale il proprio paese, l'Italia. Il 18 dicembre del 2007. Siamo a New York, nel bellissimo Palazzo di Vetro, sede dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'occasione è una delle più sentite. Si vota la moratoria universale della pena di morte, proposta dall'Italia. Le organizzazioni mondiali per i diritti umanitari sono tutte col fiato sospeso. Coloro che hanno fortemente voluto questa votazione attendono trepidanti. Fra gli altri, un uomo in particolare ha il cuore che batte un po' più forte. È un italiano, fondatore insieme alla moglie dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, che si batte per l'abolizione della pena capitale nel mondo. È il nostro primo protagonista. Il suo nome è Sergio D'Elia. Sergio D'Elia. Ero a New York, al Palazzo di Vetro. Ero commosso fino quasi a piangere. Per l'emozione mi ricordo un collegamento con Radio Radicale, proprio nel momento del voto non riuscii quasi a parlare. Cos'è questa moratoria universale della pena di morte che tanto infervora gli animi? I suoi principali promotori sono l'associazione Nessuno Tocchi Caino e il partito radicale transnazionale. Quello che si spera è di arrivare alla totale abolizione della pena capitale, ma per il momento viene scelta la via più morbida della moratoria, cioè la sospensione delle condanne, meno limitante per la sovranità dei singoli stati, per convincere anche i paesi indecisi. Non è la prima volta che Sergio D'Elia tenta di far passare la moratoria. Una sua precedente proposta di risoluzione, presentata all'Assemblea Generale dell'ONU nel 1994, perde per soli 8 voti. È una dura sconfitta per lui, che da anni porta avanti la sua battaglia e deve tornarsene a casa con un pugno di mosche. Probabilmente i tempi non sono maturi, ma l'opinione pubblica italiana, forse proprio per l'impegno così preciso del governo e delle forze politiche, inizia a interessarsi con una maggiore attenzione al problema della pena di morte nel mondo. Dai talk show alle trasmissioni dedicate, dai quotidiani alla letteratura, dal mondo dell'arte a quello del cinema, sono molti i personaggi pubblici che si schierano in favore della moratoria. Came shining, and I was strolling. Oh, the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and our voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. D'Elia non demorde. In più di un decennio di battaglie riesce a muovere le coscienze, crea un movimento d'azione. È determinato, ha una forza straordinaria. Certamente lo guidano convinzioni profonde che hanno origine in un passato quantomeno burrascoso. Lo scopriremo insieme. Prima però ascoltiamo le parole di Romano Prodi, che nel 2006 accoglie le istanze del nostro protagonista che siede in Parlamento e che insistentemente porta avanti la sua lotta. Il neo presidente del Consiglio sta tenendo il suo discorso sulla fiducia al governo e in replica alla richiesta avanzata il giorno prima da Sergio D'Elia, deputato della Rosa nel Pugno, risponde così. L'Italia è contro la pena di morte. Gli iter legislativi sono lunghi e spesso frustranti e richiedono una mobilitazione sociale che li sostenga. Perfino Roberto Benigni, durante un suo spettacolo, parla dell'argomento. La moratoria dell'Italia sulla pena di morte, che ce ne dimentichiamo subito, mi fate fare un applauso a me personale, ma viva chi l'ha fatta, la moratoria contro la pena di morte voluta dall'Italia, dagli italiani. Questa è una cosa che se tutto questo tempo non finisce qui, qualcuno ce ne sarà grato, perché credo che nessuno di noi voglia essere preso ad essere parte di un omicidio e di un assassino di qualcuno che non sa neanche chi è, neanche la 50 milionesima parte. Io non voglio avere a far parte di nessuno che ha ammazzato nessuno. Finalmente la moratoria viene riproposta al voto. I paesi presenti nel Palazzo di Vetro sono 187 dei 192 stati membri dell'ONU. Come andrà questa volta? Verrà approvata? è la domanda che continua a girare in testa a Sergio D'Elia. Sono anni che aspetta questo momento. Ha messo tutto se stesso in questa battaglia ed è inevitabile per lui ritornare con la mente a ben altre lotte, combattute anni addietro. Il rumore del ciclostile che sforna volantini a tutto andare ormai non lo sente neanche più. Per Sergio è un suono caldo, rassicurante, lo calma. Dopo la fatica fatta per scegliere con cura parole, verbi, aggettivi giusti, la stampa ha un che di liberatorio. Siamo nel pieno della rivoluzione studentesca e Sergio ne è un protagonista. Partecipa attivamente a manifestazioni di massa, volantinaggi fuori dalle fabbriche, proteste organizzate alle università. È il 1971. Gli studenti sono in rivolta in tutto il mondo. Le idee rivoluzionarie entrano nelle fabbriche e prospettano il miglioramento delle condizioni di lavoro, il balzo in avanti alle elezioni del Partito Comunista Italiano, dall'errata sensazione dello sgretolamento del vecchio regime, dominato dalla Democrazia Cristiana. All'estero, gli Stati Uniti vivono la loro stagione più buia, con la logorante e impopolare guerra del Vietnam, mentre l'Unione Sovietica interviene pesantemente per reprimere le aspirazioni libertarie della Cecoslovacchia. Per un giovane come Sergio, scegliere da che parte stare non è un fatto di testa, ma di pancia. Sono nato a Pontecorvo, lo ricordo della mia infanzia, proprio un viaggio da Pontecorvo, nella prima macchina di mio padre carabiniere, un topolino grigio che ci portava a Lecce, dove poi avrei vissuto la mia infanzia e la mia giovinezza. Sergio dà un senso al proprio desiderio di impegno politico, entrando in alcune formazioni extraparlamentari, fino ad approdare a Prima Linea, organizzazione terroristica di estrema sinistra di cui diventa dirigente. Insieme a lui, tra gli altri, Maurice Bignami e Sergio Seggio, un periodo fotografato dal regista Renato De Maria nel film La Prima Linea, con Riccardo Scamarcio nel ruolo appunto di Sergio Seggio. La clandestinità per Sergio D'Elia dura poco. Arrestato una prima volta per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante una manifestazione, una seconda per riciclaggio di materiale didattico rubato durante l'occupazione della facoltà di architettura, colleziona qualche giorno di carcere. Ma un avvenimento molto grave cambierà di lì a poco il corso delle cose. Anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. È il 20 gennaio 1978. Sergio è a Roma. È di ritorno da un viaggio in Puglia, dove è andato a trovare la madre. Ha deciso di fermarsi per la notte nella capitale e si trova nella sua camera d'albergo. Accende la televisione e rimane di sasso. Il telegiornale sta dando una notizia terribile. Il carcere delle Murate a Firenze è assaltato per liberare dei terroristi. Fino a quel momento le lezioni di Prima Linea, almeno a Firenze, si erano svolte senza spargimento di sangue. Con l'assalto alle Murate, quello che era un po' il mito, direi quasi letterario, che ci animava, che animava la nostra lotta armata, pensavamo cosa poteva esserci di più forte nell'immaginario collettivo, ma anche nell'immaginario di un militante rivoluzionario, di un assalto al carcere, no? E la liberazione dei detenuti. Però con quell'assalto, con quell'azione finita nel sangue, il mito si confrontava un po' con la dura realtà, come dire, della vita e della morte, cioè della vita che noi mettevamo a repentaglio, sia la nostra sia quella del come dire, nemico, e quindi anche con la morte, il dolore che le nostre azioni arrecavano. Quindi l'assalto alle Murate da mito un po' si tramutava in una realtà tragica. E penso che noi con quell'azione, almeno noi di Prima Linea a Firenze, perdemmo, come dire, la nostra ingenuità, la nostra innocenza, e la morte di un poliziotto un ragazzo ancora, è stata una tragedia per la sua famiglia, ma credo che si rivelò essere poi anche l'inizio della fine di un mondo, del nostro mondo, irreale, immaginario e inattendibile. Nonostante non si trovi nemmeno a Firenze al momento dei fatti, Sergio D'Elia viene arrestato. L'accusa è partecipazione ad associazione sovversiva, partecipazione a banda armata e detenzione di armi. Per lui le porte del carcere si aprono questa volta per molto tempo. Sì, lo ricordo come fosse oggi. Quell'arresto e la traduzione al carcere delle Murate, io lo ripeto spesso perché lo ricordo molto bene, lui li ho vissuti come una liberazione. I due anni di lotta armata erano stati tremendi, erano stati durissimi, pesanti. Le speranze che la nostra lotta potessero essere speranze di liberazione, di giustizia, erano già da tempo per me andate distrutte, ed erano i mezzi che usavamo nella nostra lotta poi a distruggere. Cioè, si dimostrava ampiamente come la nostra battaglia fosse vana rispetto proprio agli obiettivi che ci eravamo dati. Quindi avevo accettato interiormente come dire, la realtà, la verità della nostra sconfitta, e quindi aspettavo il mio arresto come ineluttabile, ma anche un epilogo necessario. Ecco perché io ricordo quella bella, luminosa giornata di maggio fiorentino come un ricordo vivo, e tutto sommato sereno. Mi ricordo una cella proprio arredata come sono le celle dell'isolamento in maniera spartana, e la branda piantata per terra, il materasso di gomma piuma, le lenzuola un po' ruvide, la coperta marrone dell'amministrazione. Però quel luogo era per me il luogo più confortevole che io avessi frequentato nell'ultimo periodo. Finalmente potevo dormire. Dopo anni di attentati, morti e vita clandestina, tra le fila di prima linea inizia a farsi largo il dubbio. Molti sono i pentiti e una profonda riflessione interna porta allo sfaldamento dell'organizzazione. A questo si aggiunge un fatto che scuote profondamente l'opinione pubblica, l'affare Donat Cattin. Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando. Gli uomini di prima linea lo hanno atteso a un semaforo. La polizia identifica tra i nomi più importanti di prima linea quello di Marco Donat Cattin, figlio di Carlo, membro di spicco della Democrazia Cristiana e più volte ministro della Repubblica Italiana. Il giovane è accusato di avere partecipato attivamente a diverse azioni terroristiche, tra le quali l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, riesce a fuggire in Francia lo stesso giorno in cui la notizia viene resa pubblica. Un magistrato innocente, cui interessava solo la verità, muore. Un assassino invece riesce a fuggire. Lo Stato ha bisogno di un colpevole, e a ogni costo. Per D'Elia è l'inizio di un incubo. Con l'arresto e la collaborazione dei pentiti di prima linea, i magistrati fiorentini raccolgono elementi fondamentali sul suo ruolo dirigenziale all'interno dell'organizzazione. Per i magistrati, il dirigente locale con responsabilità anche a livello nazionale deve rispondere di tutte le azioni compiute sul territorio di sua competenza. Sergio D'Elia viene così accusato di tutti i fatti avvenuti a Firenze, compreso l'assalto delle Murate e l'uccisione di Fausto Dionisi. La Corte d'Assise di Firenze lo condanna a 30 anni di reclusione per concorso in omicidio e per altri 81 capi di imputazione. Noi di prima linea abbiamo fatto cose da pazzi, è vero. Ma non eravamo pazzi. Oggi, mentre tra le strade di Berlino si fa festa per la caduta del muro, oggi che la storia sta cancellando quel che resta del comunismo, so che eravamo fuori dal tempo, fuori dal mondo. Avevamo scambiato il tramonto per l'alba. Ci credevamo noi partigiani. Ci sentivamo come i guerriglieri per le lotte di liberazione del terzo mondo. Ma non eravamo nel terzo mondo. Eravamo convinti di aver ragione. E invece avevamo torto. Ma allora, non lo sapevamo. In una strada, forse in una stanza, dietro mille finestre, noi guardavamo nella stessa direzione e la storia si ferma. passava sopra. Destini incrociati. A Destini incrociati è il dicembre del 1984. Siamo a Roma, nel penitenziario di Rebibbia. Sergio D'Elia è un giovane che ha imboccato la strada senza via d'uscita della lotta armata. Dentro di lui una profonda riflessione sul senso delle sue scelte si sta facendo strada. Per 5 anni ha peregrinato da un carcere speciale all'altro: Novara, Pianosa, Cuneo, Fossombrone, Trani, Nuoro. 5 anni nei quali è sottoposto al regime dell'ex articolo 90. Ciò significa riduzione drastica di ogni rapporto con l'esterno, un colloquio al mese attraverso il vetro divisorio, limitazioni nella corrispondenza e nella socialità interna. Questo tipo di restrizioni e la solitudine che esse comportano lasciano molto tempo per pensare. E Sergio ha sicuramente maturato un cambiamento rivoluzionario dentro di sé. Ma cosa porta Sergio D'Elia ad abbandonare la lotta armata e a modificare da quel momento e per il resto della vita il suo modo di essere, tanto da trasformarlo in un non violento impegnato nelle lotte umanitarie? La risposta è in un pomeriggio in cella. La radio è sintonizzata su un'emittente che parla di politica e di battaglie sociali. Vi dico, è necessario impegnarsi. Vi chiediamo di fare qualcosa, di dare il necessario, non il superfluo, di dare mezzo caffè al giorno, di dare 2 sigarette al giorno o l'equivalente, le energie umane o quelle finanziarie, perché noi si possa davvero organizzare la marcia dei partigiani della democrazia, della libertà, dell'onestà, dell'esempio, marcia non solo su Roma, ma su tutta la penisola, per guadagnare una Italia e una Europa profondamente diverse ed umane. Impossibile non riconoscere questa voce tra mille altre. È Marco Pannella. Marco Pannella, fondatore nel 1977 del Partito Radicale e suo leader storico ancora oggi. Alla radio D'Elia ascolta quell'uomo e comprende a poco come poter dare un senso, un indirizzo diverso alla propria esistenza. Comprende che quell'uomo dalla voce un po' afona, rovinata dalle sigarette, ha un'incredibile energia che riversa nelle battaglie civili che dal 1970 ha intrapreso e fatto conoscere a tutto il mondo, dalla legge per il divorzio alla legalizzazione dell'aborto, dalla liberalizzazione delle droghe all'abolizione della pena di morte. Un impegno portato avanti per anni e anni, attraverso lo strumento referendario e ricorrendo ai metodi della lotta politica non violenta, resi popolari dal Mahatma Gandhi e dal reverendo Martin Luther King. Scioperi della sete e della fame, disobbedienze civili, sit-in. Abbiamo legalizzato il divorzio, abbiamo legalizzato l'aborto, volevamo legalizzare questi partiti ladri di tutto. Sergio è subito colpito da quell'uomo che ha un carisma, una forza magnetica che conquista. Sergio comprende, grazie a lui, quale sarà la sua strada: abbracciare il pensiero non violento. Dove si trova c'è tanto da fare. Occuparsi delle condizioni sue e dei suoi compagni, quelle di tutti i carcerati, un tema al quale Marco Pannella riserva un'attenzione particolare. Voltaire, ancora, disse: se volete conoscere un paese, visitatene innanzitutto le carceri. D'Elia, così come molti altri suoi compagni di lotta, hanno alle spalle un percorso fatto di non rassegnazione rivoluzionaria che sfocia nella violenza. Marco Pannella e i radicali fondano la loro esistenza e il loro operato politico sulla medesima non rassegnazione, ma agendo sul confronto e nel rispetto assoluto della vita e del pensiero altrui. L'incontro con questo modo di pensare così simile, ma di agire così diametralmente opposto, cambia il destino di Sergio D'Elia. L'incontro con Marco non è stato, secondo me, un incontro casuale. Negli anni del terrorismo, negli anni 70, Pannella si rivolgeva a noi chiamandoci compagni assassini. Insomma, in sostanza cosa diceva? Violenti e non violenti in realtà sono fratelli, sono rivoluzionari gli uni e gli altri, i violenti sono rivoluzionari per odio, lo diceva, i non violenti lo sono per amore. Mi lega comunque la passione politica, la non rassegnazione, la non indifferenza rispetto al mondo e al tempo in cui ne vivevano. Queste parole che sulle prime in quegli anni mi fecero mi diedero fastidio, mi fecero anche arrabbiare, poi erano parole dure ma anche poi di dialogo e hanno poi colpito, hanno lasciato il segno. È l'inizio di un cambiamento storico che porterà con sé sviluppi fondamentali e inaspettati, non solo nella vita di Sergio D'Elia e di molti dei suoi compagni di lotta, ma anche in quella del nostro paese. È il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Prima Linea si scioglie ufficialmente il 14 aprile del 1983. È la fine della lotta armata. Le ragioni vengono spiegate in un lungo documento manifesto del giugno 1983 dal titolo «Sarà che avete nella testa un maledetto muro». In questo documento gli ex di Prima Linea prendono le distanze dalla lotta armata. Si tratta di capire il desiderio profondo di libertà, delle libertà personali e collettive che percorre il corpo della società. E quindi ci relazioniamo a quei movimenti che compiono incursioni, attraversamenti, intrecci con l'assetto istituzionale della società, portando anche al suo interno una critica radicale, interagendo con esso per reimporre modificazioni o estorcere vittorie. È il caso delle grandi opzioni popolari in tema di libertà sociali e di destini umani, aborto, divorzio, centrali nucleari. La dissociazione dal terrorismo di D'Elia e degli altri ex irriducibili della lotta armata porta i giudici della Corte d'Appello di Firenze a ridurre notevolmente le pene comminate. È il febbraio del 1985. Gli anni di carcere inflitti a Sergio D'Elia passano da 30 a 25, concedendogli le attenuanti generiche. È il 22 novembre 1986. Siamo a Roma, al congresso del Partito Radicale. Marco Pannella legge una lettera molto speciale. Io vorrei leggervi la lettera di due che ci hanno ripensato, anche loro si sono iscritti, e sono i nostri compagni ergastolani, penso. Uno ergastolano, Maurice Bignami e Sergio D'Elia. Sono un partito di 2000 iscritti, ha la credibilità necessaria per invogliare tutti gli scommettitori a rischiare almeno una volta nel gioco della democrazia. È con questo spirito che ci siamo mossi dal carcere. Per aderire a questa convenzione democratica siamo venuti qua per giurare sulla democrazia. Il rituale del giuramento potrà anche apparire retorico. In ogni caso, per noi questo è il qui ed ora, il luogo e l'occasione, il momento giusto per fare e sottoscrivere il nostro giuramento. Perché una cosa è certa, ci dispiace tremendamente di aver fatto la lotta armata, ma se questo è possibile, ci dispiace ancora di più di non aver fatto fin da subito la democrazia. Firmato Maurice Bignami e Sergio D'Elia. Il percorso è tracciato, il cambiamento è compiuto. D'Elia, avvalendosi di un permesso speciale per ex terroristi, partecipa al congresso radicale del febbraio-marzo 1987, dove consegna simbolicamente Prima Linea, votando se stesso e gli ex appartenenti dell'organizzazione, al partito della non violenza. In questa convenzione democratica noi vi consegniamo un'organizzazione terroristica, nuda, mani e piedi, cuore e anima finalmente liberati. Noi abbiamo sciolto la banda armata Prima Linea nel 1983, oggi ve la consegniamo, pura moralità e patto di non indifferenza, vi consegniamo uomini e donne armati di compassione e tolleranza per tornare a vivere e lottare con le regioni e nelle speranze del partito della vita e della non violenza. Alla fine del congresso D'Elia viene chiamato a far parte della segreteria federale del Partito Radicale per occuparsi principalmente della riforma penitenziaria. Nel gennaio 1988 beneficia della legge sulla dissociazione dal terrorismo, approvata l'anno prima, grazie alla quale può lavorare al partito durante il giorno e tornare in carcere solo per dormire. Nella sua ordinanza la Corte d'Appello di Firenze afferma: ore dell'Elia ricorrono le condizioni previste dalla legge numero 34 del 1987 per la concessione dei chiesti benefici, poiché il Delia si è definitivamente dissociato dal terrorismo, ha ripudiato la violenza come metodo di lotta politica, ha tenuto comportamenti univocamente ed obiettivamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, come risulta provato dalla relazione comportamentale dell'educatore della casa circondariale di Roma Rebibbia e da tutta la documentazione prodotta che comprende interviste ai giornalisti di vari quotidiani, con l'invito ai superstiti di rifiutare il terrorismo e di non più uccidere. La pelle, da quel giorno che sei nato ce l'ha. Destini incrociati. A Destini incrociati, un giovanissimo Sergio Delia ha abbracciato la lotta armata, imboccando una strada di non ritorno che gli ha aperto le porte del carcere. Ma al contempo ha riacceso la speranza di una vita diversa, basata su valori positivi. A indicargli una via d'uscita Marco Pannella, l'uomo delle mille battaglie per i più deboli, per i diritti universali. Per Delia inizia una stagione di impegno, che parte dalla condizione dei detenuti. Basta leggere i rapporti, non della CIA, delle organizzazioni internazionali di questa diritti umani sulle condizioni nelle prigioni, a proposito di sanità, a proposito di rispetto del diritto alla salute, sia la Commissione Interamericana sui diritti umani che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno denunciato il fatto che nelle prigioni cubane si muore. Dal carcere Sergio non ha paura di esprimere i suoi sentimenti, non teme di indirizzare le sue parole agli ex compagni della lotta armata. Non sono progetti, futuro, umanità, speranze che valgano una vita, la vita di chiunque. Non uccidete, uccidere è sempre una perdita. Non vi è storia della salvezza, compagni assassini che possa proseguire se spezza una vita. Sono le parole che Sergio invia alle Brigate Rosse, che continuano a macchiarsi di crimini sanguinosi. La lotta per la non violenza, per la difesa della vita, che intraprende, seppur dalla cella di un carcere, diventa sempre più forte, più esplicita. Si batte per Paula Cooper, una ragazzina nera di 14 anni omicida, rinchiusa nel braccio della morte di un carcere americano. Partecipa a uno sciopero della fame e simbolicamente alla manifestazione organizzata dal Partito Radicale davanti all'ambasciata sovietica per la libertà e il diritto degli ebrei sovietici di emigrare in Israele. Promuove insieme ad altri detenuti politici di sinistra uno sciopero della fame per Paolo Signorelli, militante politico di destra detenuto da oltre 7 anni in attesa di giudizio e in pericolo di vita per le sue gravi condizioni di salute. Il suo impegno è oramai pubblico, evidente, alla portata di tutti. E la società lo riconosce. Dopo 12 anni di reclusione, il 15 gennaio del 1991, Sergio Delia varca i confini del carcere di Rebibbia e riacquista la sua libertà. Da questo momento la vita di Sergio Delia è dedicata alla vita. All'ambito della sua attività nel Partito Radicale conosce la parlamentare e scrittrice Maria Teresa Di Lascia, che è impegnata da anni sul fronte della battaglia per l'abolizione della pena capitale nel mondo. Maria Teresa diviene la sua compagna e con lei, nel 1993, Sergio fonda Nessuno Tocchi Caino, l'associazione nata per la difesa della vita e per la lotta contro le esecuzioni capitali nel mondo, cui aderiscono personalità della politica e della cultura a livello internazionale. Funny how a breaking heart can make me start to say what good is my life. Funny how I often seem to think I'll find another dream in my. Soluzioni Magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi ha presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.